Canto ottavo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ottavo. Io dico, seguitando, ch'assai prima che noi fussimo al piè dell'alta torre, gli occhi nostri in andar suso alla cima, per due fiammette che vedemmo porre, e un'altra da lungi render cenno, tanto ch'appena al potea l'occhio torre. Ed io, rivolto al mar di tutto il senno, dissi: questo che dice? E che risponde quell'altro fuoco? E chi son quei che il fenno? Ed egli a me: su per le succide onde già puoi scorgere quello che s'aspetta, se il fumo del pantano non ti nasconde. Corda non pinse mai da sé saetta che sì corresse via per l'aere snella, come vide una nave piccioletta venir per l'acqua verso noi in quella, sotto il governo d'un sol galeoto, che gridava: or se giunta, anima fella? Flegias, Flegias, tu gridi a voto, disse lo mio signore, a questa volta, più non ci avrai se non passando il loto. Quale colui che grande inganno ascolta che gli sia fatto e poi se ne rammarca, tal si fe Flegias nell'ira accolta. Lo duca mio discese nella barca, e poi mi fece entrare appresso lui, e sol quando io fui dentro parve carca. Tosto che il duca ed io nel legno fui, segando se ne va l'antica prora dell'acqua più che non suol con altrui. Mentre noi correvam la morta gora, dinanzi mi si fece un pien di fango, e disse: chi sei tu che vieni anzi ora? Ed io a lui: s'io vengo, i non rimango. Ma tu chi sei, che si sei fatto brutto? Rispose: vedi che son un che piango. Ed io a lui: con piangere e con lutto, spirito maledetto, ti rimani, ch'io ti conosco ancor sia lordo tutto. Allora stese al legno ambe le mani, perché il maestro accorto lo sospinse, dicendo: via costà con gli altri cani. Lo collo poi con le braccia mi cinse, baciommi il volto e disse: alma sdegnosa, benedetta colei che in te s'incinse. Quei fu al mondo persona orgogliosa, bontà non è che sua memoria fregi, così è l'ombra sua qui furiosa. Quanti si tengono or lassù gran regi, che qui staranno come porci in brago, disse lasciando orribili dispregi. Ed io: maestro, molto sarei vago di vederlo attuffare in questa broda, prima che noi uscissimo del lago. Ed egli a me: avanti che la proda ti si lasci veder, tu sarai sazio, di tal disio converrà che tu goda. Dopo ciò poco vidi quello strazio far di costui alle fangose genti, che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio. Tutti gridavano a Filippo Argenti, quel fiorentino spirito bizzarro in sé medesmo si volgea codenti. Quivi lasciammo, che più non ne narro. Ma negli orecchi mi percosse un duolo, perché io avanti intento l'occhio sbarro. E il buon maestro disse: ormai, figliuolo, s'appressa la città ch'a nome dite, coi gravi cittadin, col grande stuolo. Ed io: maestro, già le sue meschite là entro certo nella valle cerno, vermiglie come se di fuoco uscite fossero. Ed ei mi disse: il fuoco eterno che entro la fuoca le dimostra rosse, come tu vedi in questo basso inferno. noi pur giugnemmo dentro all'alte fosse che vallan quella terra sconsolata. Le mura mi parean che ferro fosse. Non senza prima far grande aggirata, venimmo in parte dove il nocchier forte «Uscite!» ci gridò, «qui è l'entrata!» Io vidi più di mille in sulle porte dal ciel piovuti, che stizzosamente dicea, «chi è costui che senza morte va per lo regno della morta gente?» E il savio mio maestro fece segno di voler lor parlar segretamente. Allor chiusero un poco il gran disdegno e disser, «vien tu solo, e quei sen vada, che si ardito entrò per questo regno, sol si ritorni per la folle strada, provi, se sa, che tu qui rimarrai, che scortolai per si buia contrada». Pensa, lettore, s'io mi sconfortai nel suon delle parole maladette, che non credette ritornarci mai. O caro duca mio, che più di 7 volte mai si curtà renduta e tratto d'alto periglio che incontra mi stette, non mi lasciar, diss'io, così disfatto, e se l'andar più oltre m'è negato, ritroviam l'orme nostre insieme ratto. E quel signor, che lì m'avea menato, mi disse, «non temer, che il nostro passo non ci può torre alcun, da tal ne dato. Ma qui m'attendi, e lo spirito lasso conforta, e ciba di speranza buona, ch'io non ti lascerò nel mondo basso». Così sen va, e quivi m'abbandona lo dolce padre, ed io rimango in forse, che il no e il sì nel capo mi tenzona. Udir non puoti quello che lor porse, mai non stette là con essi guari, che ciascun dentro a prova si ricorse. Chiuser le porte quei nostri avversari nel petto al mio signor che fuor rimase, e rivolsesi a me con passi rari. Gli occhi alla terra e le ciglia avea rase d'ogni baldanza, e dicea ne sospiri, «chi m'ha negate le dolenti case?» Ed a me disse, «tu, perch'io m'adiri, non sbigottir, ch'io vincerò la prova, qualca la difension dentro s'aggiri. Questa lor tracotanza non è nuova, che già l'usaro a men segreta porta, la qual senza serrame ancor si trova. Sovr'essa vedestù la scritta morta, e già di qua da lei discende l'erta, passando per gli cerchi senza scorta, tal che per lui ne fia la terra aperta». Fine del canto 8.